Bentrovati e benvenuti a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica tutto tondo in onda sulle frequenze di Radio Città Fucico 103.1 FM. Un salotto convivio tra musicisti, addetti ai lavori e non solo, rivolto a soddisfare le curiosità che girano intorno al mondo della musica. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a co-condurre il nostro viaggio una graditissima e già nota ospite di Radio Fucico, Francesca Clementoni. Benvenuta Francesca a Suoni Paralleli, a questa nostra quinta puntata in onda su Radio Fucico. Come stai cara? Tutto bene? Bene, noto con piacere che hai tolto i 360 gradi e hai optato per un più simpatico tutto tondo, e questo ci fa molto piacere, sia a diciamo me che agli ascoltatori. La terminologia di Suoni Paralleli è in continua evoluzione e aggiornamento. Evolviamo. E come evolvono i nostri argomenti che sono passati, diciamo, da un ambito più jazz tecnico e musicale ad un ambito più largo che riguardava la produzione nel settore di musica elettronica. Abbiamo parlato poi con alcuni addetti ai lavori del settore editoriale e anche dell'organizzazione di eventi, di come si realizza materialmente uno spettacolo. Oggi volevamo cambiare argomento, andare a trattare sempre una delle parti, insomma, una parte del mondo della musica. Oggi so che si parla di cose difficili, di quelle che ci metto un paio di puntate a capirle. Tipo quella cosa del producer, che poi dopo sì, un po' l'abbiamo ma spiegato. Ma mi sa che questa è ancora più difficile. No, in realtà non è più difficile. L'argomento della giornata che andremo a trattare poi con i nostri ospiti che sto per presentarvi è la parte che riguarda la registrazione dei CD, delle canzoni, che in questo momento in Italia, grazie all'home recording, vale a dire la registrazione che viene fatta in casa col supporto di strumenti digitali che ormai sono entrati nell'uso comune, no? Per tutto quello che riguarda sia i ragazzi molto piccoli, sono anche diventati molto economici. Questo ha prodotto un vero e proprio uragano all'interno del sistema musica, perché i dischi ormai vengono registrati in tanti modi diversi. Oggi andremo a vedere un attimo quello che succede quando si entra in uno studio di registrazione e non solo, quando si prova a registrare direttamente a casa con un recording, andiamo ad ascoltare varie cose, e andremo a individuare un altro dei modi di registrare, che è uno dei modi più particolari che permette un ascolto, diciamo, fruibile ad alta qualità da parte dell'ascoltatore, che è il metodo binaurale. Ospite della puntata di Suoni Paralleli a parlarci, insomma, di questo argomento della registrazione con audio 3D binaurale oggi è Stefano Arcero. Benvenuto a Suoni Paralleli. Ciao, Stefano. Ciao a tutti. Ciao, è davvero un piacere averti qui, proprio perché, come dicevamo, spesso Suoni Paralleli è un programma che parla dei nuovi generi musicali e di come si miscelano coi vecchi, quindi di tutte le influenze che fanno parte della vita della composizione della musica, ma allo stesso tempo si parla, diciamo, di argomenti come quelli che possono essere quelli della produzione della musica elettronica. Abbiamo parlato con diversi producer, le tecniche vere e proprie di registrazione, classiche o meno classiche, possono essere prese in considerazione dal nostro punto di vista fino a un certo punto, vale a dire non tutti conoscono quello che succede all'interno di uno studio di registrazione o quanti modi di registrare una voce, una band o altro abbiamo. In questo caso approfondiremo proprio con te una delle tecniche che più mi ha incuriosito, e questo audio binaurale. Francesca, andiamo subito più o meno a delineare quello di cui stiamo parlando, poi andremo anche a fare ascoltare al nostro pubblico alcune registrazioni binaurali particolari che ha portato il nostro ospite con sé, proprio delle chicche, delle perle vere e proprie, Franci, per capire. Intanto possiamo dire, Stefano, in una prima battuta, che l'audio binaurale, la registrazione in binaurale, permette al fruitore della musica, all'ascoltatore musicale, di percepire una dimensione tridimensionale della musica che lui ascolta. Ad esempio, avremmo nel caso di alcune registrazioni la percezione della posizione del cantante rispetto al microfono nel momento della registrazione, i famosi bisbigli nell'orecchio che possono essere stati inseriti in diversi dischi. Sono state fatte con delle tecniche che poi pian piano hanno portato anche all'utilizzo sempre più, insomma, sempre più nell'ambito della musica mainstream, di queste nuove tecniche di registrazione che permettono di muovere nello spazio la fonte della musica. Giusto Stefano, ho detto bene? Correggimi se sbaglio, dammi un po' un'indicazione. Sì, hai detto bene, benissimo direi. E sicuramente infatti possiamo parlare di illusioni sonore, illusioni acustiche, quindi dei suoni che vengono generati nello spazio intorno all'ascoltatore. E questo è possibile farlo attraverso l'utilizzo di una semplice cuffia. Quindi oggigiorno siamo ormai tutti, tramite gli smartphone, i cellulari, dotati di cuffie. Anche se sono di bassa qualità, l'effetto tridimensionale è presente. E ovviamente con cuffie di qualità media o qualità superiore si può ascoltare un sound, oltre che tridimensionale, anche carico di, ad esempio, di bassi, e definito in tutte le frequenze. Ti faccio subito una domanda, Stefano, una curiosità: con il fatto che ne parlavi proprio adesso, no? Che tutti, tramite l'utilizzo del cellulare, hanno la possibilità di fruire di musica registrata in vari modi, e che quindi nei modi più disparati, quindi l'utilizzo delle anche tramite il telefonino nella nostra vita quotidiana, ha abbassato la qualità del livello musicale dei dischi, ad esempio, cioè i dischi che vengono ascoltati o le produzioni in generale, anche quelle che vanno sul web, in questo senso hanno un livello più basso proprio perché tutti hanno la possibilità con un telefonino di registrarsi, oppure questa cosa qui sta diventando positiva perché tutti ci provano e quindi il livello sale perché abbiamo più gente a provarci? Che ne pensi tu di questo? Allora, se ti riferisci ai concerti e live, direi che registrare con un cellulare, in questo caso sono un po' d'accordo con Bosso, che se la prende con tutti coloro che registrano con il cellulare, perché ammazzi comunque un po' la registrazione del live. L'espressione. Esatto, comunque fai una registrazione mono e di una qualità che sì, va bene per YouTube, ma tanto per avere una parvenza di quello che è successo nel live. Direi di lasciare le registrazioni live agli studi mobili di ripresa, tra virgolette, tradizionale, quindi come si è sempre fatto. Certo, oppure quanto meno per una produzione minorale editoriale, no? Per qualcosa che poi viene messo in pubblico, assolutamente. Io parlavo dei cellulari come mezzo invece di ascolto, perché oggi attraverso il cellulare possiamo collegarci a YouTube e ascoltare comunque la qualità, che è sempre compressa, però per molte cose va bene su YouTube, oppure addirittura scaricarsi comunque dei file e ascoltarli tramite una cuffia collegata al cellulare. Domanda: quindi tramite YouTube, utilizzando una cuffia, è possibile fruire di una qualità binaurale dell'ascolto? Assolutamente sì, i nostri file, i nostri audio video sono caricati su YouTube e subiscono la compressione di YouTube, ma la registrazione binaurale fatta professionalmente è talmente di qualità che una compressione fatta da YouTube non scalfisce affatto il... Bene, adesso allora andremo un po' ad ascoltare. Noi chiaramente non lo faremo dai canali YouTube, ma da quelli direttamente della tua mano, grazie al cielo abbiamo a te che hai prodotto delle diverse registrazioni, insomma, diverse registrazioni che hai prodotto nel corso degli anni. Sappiamo che hai collaborato e hai avuto l'occasione di registrare dal vivo i concerti di tantissimi, sì, tantissimi artisti. Mi viene voglia di citarne subito uno: romanticamente Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme, per passare ad uno degli artisti con cui io direi di aprire questi ascolti binaurali a Radio Città Fujiko per Suoni Paralleli. L'artista che volevo far ascoltare in registrazione binaurale, giusto per capire subito di cosa stiamo parlando, è John DeLeo, registrato sempre da Stefano Arcero. I suoi sono Giochi di Voce. È possibile trovare questo materiale online, vero Stefano? Sì, tutti possono ascoltare queste registrazioni tue in binaurale, fatte sulla voce incredibile di John DeLeo dei Quinto Rigo, ex cantante dei Quinto Rigo. Tutti conoscono le sue doti. Dicevamo che la fruizione in binaurale è possibile avendo delle cuffie, diciamo, quantomeno che permettano la stereofonia. Adesso andremo poi, subito dopo questo ascolto, ad indagare bene sul come funziona l'ascolto e anche la registrazione, perché no, binaurale, per poi passare a delle forme anche un attimino più light. Vorrei il tuo parere anche su tutto il mondo dell'home recording, che ultimamente sta mietendo vittime, come creando nuovi successi e nuovi mostri. Andiamo intanto ad ascoltare questa registrazione in audio 3D binaurale di Stefano Arcero, fatta su John DeLeo. Questa è Giochi di Voce. Continue Questa era Giochi di voce, registrata in audio 3D binaurale di John DeLeo, e abbiamo ascoltato una vera e propria perla. Siamo Suoni Paralleli, questa è Radio Città Fucico 103.1 FM. Ancora benvenuti, chi vi parla è Antonino Barresi e con me Francesca Clementoni. Francesca, che ne pensi di questa prima parte binaurale di Suoni Paralleli? Sono folgorata, stavo inseguendo tutte queste vocine che correvano qua intorno nello studio e devo dire esatto, che io direi che la radio poi la radio poi permette una fruibilità molto particolare della stereofonia, perché di solito no, rende piacevoli degli ascolti ancora più di quello che già sono, quindi diciamo che potenzia in alcuni casi, no? Un po' l'ascolto, e chiaramente ascoltare uno come John DeLeo, che è un po' l'equivalente di Maradona che fa palleggi col pallone, lui lo farà con la voce, diciamo che è davvero un piacere per l'orecchio, soprattutto se la registrazione ti permette di fruire del particolare, no? Io volevo chiedere una cosa a Stefano, perché mi è parso di capire che questo modo di registrare e fruire la musica ha una storia, non è una cosa nata ora con la tecnologia, non è un'innovazione di adesso, giusto? Sì, esatto, spesso ci dicono che è una tecnologia che ha a che fare col futuro, in realtà affonda le radici a fine 800, quando si svilupparono le prime idee che avevano a che fare con la stereoscopia, quindi la visione tridimensionale delle immagini, e parallelamente anche dell'audio ascoltato in 3D, e quindi i primi esperimenti di trasmissione con un cosiddetto streaming che si basava su reti telefoniche dell'epoca. Quindi sostanzialmente ci doveva essere chi a casa aveva due numeri distinti telefonici e poteva ascoltare con due cornette, una posta sull'orecchio sinistro e l'altra sull'orecchio destro. E ci fu nel 1881 un primo esperimento di streaming. Ovviamente potete immaginare voi la tecnologia dei microfoni a carbone dell'epoca, però l'idea c'era. Poi dagli anni 50 agli anni 70 i microfoni sempre più piccoli, fino ad arrivare alle capsule microfoniche che entrano in un padiglione auricolare di un simulacro di testa, hanno fatto sì che marchi come la Neumann hanno investito in 30 anni di ricerca, tirando sul mercato tre modelli fino all'ultimo, che è quello che abbiamo adottato ed utilizziamo tuttora, che si chiama KU100 della Neumann ed è del 1993, quindi parliamo di qualcosa che già ha qualche annetto. Quindi diciamo che negli ultimi anni ci sarà stato un ulteriore sviluppo rispetto a quello che già viene utilizzato raramente, quindi figuriamoci in questo momento. Allora, secondo noi nel 93 sono arrivati al top della resa microfonica binaurale tridimensionale con il KU100, perché è dal 93 che non si parla di alcun tipo di nuovo modello. Perché questo tipo di microfono, per chi lo utilizza, sa che risponde perfettamente a tutte le caratteristiche sonore, delle sorgenti sonore nello spazio intorno all'ascoltatore. Da citare sicuramente l'album Pearl Jam, dei Pearl Jam, chiamato proprio Binaural, certo, in cui è un po' il capostipite di questo, sì, in cui 5-6 brani sono stati registrati proprio con lo stesso microfono che abbiamo noi, KU100. E l'unica cosa che possiamo dire, album davvero bello, sono i caldi. L'unica cosa che non si è giocato Chad Blake, che era il produttore, forse lo è ancora adesso, dei Pearl Jam, non ha proprio giocato, diciamo, con la posizione delle sorgenti dietro l'ascoltatore, ma nel panorama acustico i musicisti sono tutti davanti. Tu dici che è una scelta voluta questa, oppure che magari può essere stato frutto della preparazione di quel periodo? Ovviamente magari alcune componenti, soprattutto alcune analisi che sono state fatte successivamente, ancora non erano disponibili, no? Non lo so. Allora, secondo noi, sì, come diciamo spesso, è una scelta estetica, perché per esempio anche il fatto di mischiare le varie tecnologie, quindi il mono, lo stereo, il binaurale, è una scelta estetica che probabilmente è giustificata da fattori creativi, artistici. Beh, non indifferente, direi, come scelta a livello pionieristica nel vero e proprio senso della parola. Diciamo che tra l'altro forse con i Pearl Jam l'utilizzo del binaurale poteva essere stato innescato, diciamo, dal suono delle chitarre, dei cordofoni, vero Stefano? Ci sono alcuni strumenti, ti volevo chiedere, che possono essere più adatti alla registrazione del binaurale piuttosto che altri? Ti faccio un esempio banale: oggi abbiamo ascoltato, ad esempio un attimo fa abbiamo ascoltato John DeLeo, quindi la voce sappiamo già che è uno degli strumenti principi e che permette la fruizione al 100%, ma ad esempio i cordofoni che mi vengono in mente in questo momento, perché immagino una corda della chitarra come può essere ascoltata in binaurale, secondo te è meglio di, non so, un basso oppure un altro tipo di strumento, oppure tutto può essere ricollegabile ad un tipo di fruizione binaurale e che gli consenta di avere una brillantezza, non so, una nuova forma di espressione? Sì, allora la domanda è davvero interessante, nel senso che se partiamo dalla batteria, è la batteria uno strumento veramente complicato da far rendere poi in una fruizione, soprattutto attraverso l'utilizzo dei diffusori, perché in cuffia va benissimo, si ha proprio l'illusione acustica di avere il musicista e con il proprio strumento davanti a sé. Ma sicuramente in quell'album, come nella maggior parte delle cose che si possono fare utilizzando queste tecniche di ripresa, la voce e le chitarre funzionano benissimo. Ovviamente il cantante in questo caso deve abituarsi a muoversi non più davanti a un microfono, ma davanti ad un ascoltatore ideale che sta ascoltando tutte le sfumature che si fanno. Quindi i movimenti diventano veramente importanti, a volte anche fare 2-3 passi avanti e indietro in base all'intensità che si usa fa la differenza. E poi ovviamente, come dicevi anche inizio puntata, giocare con le orecchie, quindi fare delle controcanti e dei cori sussurrati all'orecchio o posizionati dietro l'ascoltatore, cosa che è impensabile con altri tipi di tecnologie. Bene, io direi, guarda, di essere davvero un argomento molto interessante, però allo stesso tempo, Franci, no, tra parte la curiosità di sapere nuove cose, direi che bisogna andare ad ascoltare, come abbiamo fatto prima con John DeLeo. Io adesso direi, proprio perché mi incuriosiva molto la chitarra, però allo stesso tempo tu mi dicevi che la parte percussiva, insomma, è anche molto apprezzabile in questo senso dal punto di vista binaurale, per ascoltare un po' una via di mezzo, direi un finger picking di un chitarrista molto molto bravo che si chiama Gavino Loche, con cui hai avuto anche tu modo di collaborare, che hai avuto modo di registrare in 3D binaurale, addirittura in 6D, se non ricordo male, binaurale, vale a dire con, sì, utilizzando ben due microfoni, quindi 3D su 3D, addirittura in versione 6D. Esatto, giusto? Sì, abbiamo, quindi, sperimentato tanto. È anche sommabile, una cosa pazzesca. Sì, nel 6D diciamo che si apre tutto un campo ancora sconosciuto. Però l'impiego di due microfoni binaurali fanno sì che si hanno due soggettive da mettere insieme, e questo è stato fatto con Gavino Loche, che è definito il ballerino della chitarra fingerstyle e abbiamo registrato vari brani, diciamo in presa diretta, perché fondamentalmente suonava tutto il brano dall'inizio alla fine con vari take, e poi sceglievamo quella venuta meglio. Bene, lo facciamo ascoltare, perché non credo, Franci, che capiti spesso in radio di far ascoltare qualcosa in 6D, no? No. Direi che sul 3D, per la serie, alcuni dei nostri ascoltatori sicuramente avevano curiosità o potevano seguirci. Sul 6D stiamo un tantino esagerando. Facciamo ascoltare qualcosa per renderci conto, e questo ascolto che andiamo a fare di Gavino Loca in 6D Audio è una versione, diciamo, di Mission Impossible che questo artista propone, in maniera tale che, sapendo anche già qual è la trama del brano, voi possiate andare a cogliere, facciamo ascoltare questo proprio per questo, per andare a cogliere questi sapori 6D e questo, insomma, questa ottima tecnica poi chiaramente dell'artista. Questo è Gavino Loca, questa è Mission Impossible in 6D Audio binaurale. E ancora ben trovati e benvenuti a Suoni Paralleli Secondo Break, un programma di approfondimento sulla musica a tutto tondo in onda sulle frequenze di Radio Città Fucico 103.1 FM, un salotto convivio tra musicisti e addetti ai lavori, condotto da me, Antonino Barresi, e Francesca Clementoni. Ciao Francia, ancora benvenuta a Suoni Paralleli, questa quinta puntata, come ti sembra? Stiamo andando sulla parte... Mi sta affascinando molto. E adesso, subito dopo il break, subito prima, diciamo, del break pubblicitario, stavamo parlando con il nostro ospite Stefano Arcero di tutta la tecnologia che si usa, diciamo, per registrare l'audio in 3D binaurale, e abbiamo avuto modo di ascoltare diversi brani sia in 3D che in 6D. È davvero una delle poche volte che capita un'occasione del genere. Non so adesso la tua di esperienza, ma io non lo sento spesso in radio. No. Diciamo, devo dire di no. Come ti sembra? Stai cominciando a prendere un po' sì, le misure dell'audio molto binaurale? Come mi, è davvero un mondo nuovo, un sacco vero? Di interesse e di curiosità. Immagino. Per immagino. Esempio, glielo vogliamo chiedere al nostro ospite come gli è capitato nella vita di intripparsi col binaurale? È vero, è una curiosità, immagino, a parte lo studio, quindi la ricerca personale, però arrivare al binaurale, come, insomma, ce ne vuole. Stefano, ci vuoi raccontare come ti sei avvicinato al mondo del binaurale? Noi abbiamo ascoltato adesso Gavino Loca, che è un chitarrista, ma abbiamo ascoltato anche prima delle track che hai fatto con John DeLeo. Sappiamo che hai lavorato con diverse band, poi andremo a fare ascoltare anche una registrazione in binaurale dei tuoi concerti. concerti, una pietra miliare che anticipiamo soltanto adesso, la presenteremo dopo. Ma quando all'inizio hai avuto il modo di conoscere tutto il paradiso, il mondo del binaurale, qual è stata la scintilla? Bella domanda. Allora, io diciamo che fondamentalmente nell'età adolescenziale suonavo la chitarra, quindi avevo diverse formazioni e mi piaceva la musica. Poi ho intrapreso gli studi di ingegneria telecomunicazioni e all'interno di telecomunicazioni non si parla soltanto di telefonia mobile, telefonia fissa, ma ci sono anche argomenti sulla multimedialità. E così, per caso, preso diciamo da questa passione, ho fatto una tesi sull'audio digitale, in particolare sulla sintesi binaurale, quindi su modelli di ricostruzione sonora di sorgenti intorno all'ascoltatore. Poi, dopo la tesi, mi sono imbattuto nel sito di Franco Russo, che infatti ci tenevo a citare. Che salutiamo, tra l'altro, il nostro caro amico. Franco Russo è un tecnico del suono che vive a Catania, in Sicilia, proviene dall'analogico. Proviene dall'analogico, Stefano, sì. Spieghiamo al nostro pubblico, no? Cioè, nel senso, proviene dall'analogico significa che si è occupato di registrazioni analogiche, esatto. Non digitali, che invece negli sono anni, quelle più in voga ultimamente, diciamo. Bellissimo, infatti negli anni in cui le tracce si tagliavano con le forbici, ecco, sì. Come esatto. Le pellicole del cinema. Bellissimo. Con le pellicole, esattamente. E poi, quando ha cercato di intraprendere la propria strada, la prima domanda che si è fatto è stata: nella catena di registrazione qual è l'elemento più importante? Ed è partito dal concetto di microfono, quindi si è messo lì a cercare i microfoni migliori, ovviamente è andato su un marchio importantissimo che è il marchio della Neumann, questa azienda tedesca che non si fa pubblicità perché in tutti gli studi di registrazione c'è almeno un microfono Neumann. E infatti, appunto, io non ho mai visto una pubblicità della Neumann perché la qualità è la qualità che fa parlare. Infatti sì, però parlare è andato senza fare pubblicità anche su Radio Fusico. Infatti diciamo adesso hanno vinto loro in questo senso. È venuto fuori paga. Perché come la Ferrari fa la pubblicità, la Ferrari. Hai mai visto uno spot con no, la Ferrari? Non ha senso. Sì, sì, effettivamente non c'è bisogno. La qualità parla da sé. E infatti io ne sto parlando perché parlo di alta qualità. Però nello specifico è andato a ricercarsi proprio i microfoni sofisticati, quelli più, un po' più costosi. Sì, cioè, è stato un pioniere del, in questo caso, in questo, del esatto, del ha visto questa, infatti, questo simulacro di testa e a scatola chiusa l'ho comprato, ho iniziato a fare proprio le prime riprese che poi io ho sentito e parliamo del 2008. Quindi riprese di onde del mare, registrazioni in ambiente naturale, tutte cose che ascoltate in cuffia mi riportavano in quella situazione. Quindi chiudendo gli occhi avevi la sensazione di essere lì, sul posto della ripresa. E ovviamente, appunto, è una storia che parte dagli anni 70 e viene sviluppata nel corso degli anni, in questo caso dal marchio Neumann, ma ci sono stati tanti altri progetti molto interessanti, tra cui uno italo-argentino che ha coinvolto Ugo Zuccarelli e Umberto Maggi, uno dei primi bassisti dei Nomadi, i quali collaborarono anche con i Pink Floyd, quindi facendo delle registrazioni olofoniche che sono state utilizzate nell'album The Final Cut e in altre registrazioni, perché i Pink Floyd sperimentavano e quindi sono stati tra i primi a utilizzare registrazioni olofoniche che più o meno si basano sullo stesso principio, quindi di avere una sorta di testa, un simulacro di testa e due orecchie e due capsule microfoniche alloggiate nel padiglione auricolare e fare queste registrazioni tridimensionali, perché sono le uniche che danno davvero la profondità dalla lontananza al fatto di ascoltare un sussurro vicino all'orecchio che nessun impianto con più e più casse può restituire ad un ascoltatore. È davvero una delle parti, insomma, della registrazione attualmente che più in espansione, possiamo dire, anche perché ti permette di svolgere una vera e propria attività di ricerca all'interno della tua stessa capacità di espressione. Immagino un musicista che può decidere in questo caso come, ad esempio, far ascoltare la propria voce, come far ascoltare il proprio strumento all'ascoltatore, in quale posizione nello spazio, se un bisbiglio piuttosto che una voce piena e molto forte. Insomma, può essere una vera e propria rivoluzione in qualche maniera, secondo me, il discorso binaurale. Sono tanti anni che se ne parla, è stato affrontato il discorso sulla potenzialità in realtà del binaurale. Parlavi di Franco Russo, proprio perché è uno dei pionieri in questo senso, come lo sei stato tu. Avete avuto modo davvero di registrare diverse cose. Mi fa molta curiosità proprio immaginare una tecnologia tra virgolette di ultima generazione, poi adesso andremo a contrapporla in quella che è di ultimissima, come invece l'home recording sta dimostrando, no? Un po' un'altra tecnica ancora di registrare, di sviluppo delle produzioni discografiche, di ripresa audio in questo senso tramite l'home recording. Diciamo che la cosa che mi fa più curiosità sarebbe quella di andare ad ascoltare, come stiamo per fare, una vera e propria perla di una band che è molto famosa negli anni 70, anzi di due band che nel 2001, tra 2011 e 2014 fecero insieme una tournée, in cui in alcune date, insomma, hai avuto modo di esserci, hai avuto modo di registrare questo audio binaurale di queste band che le andiamo a presentare. Questa è una registrazione, facciamo sentire in 3D binaurale del Banco del Mutuo Soccorso e delle Orme in live. Questa qui dove è stata registrata? Immagino che tu non ricordi esattamente il luogo, visto che ne hai registrate tante di questi live, di queste session. Allora sì, questa registrazione è stata fatta sempre da Franco, come quella del caso di giochi di voce 3D di John De Leo, ed è stata registrata, se non sbaglio, in Sicilia o in Calabria durante la tournée del Banco del Mutuo Soccorso insieme alle Orme, ed è davvero, secondo me, una testimonianza del sound del progressive degli anni 70 portato nei teatri. E sviluppato anche in una chiave molto innovativa di ripresa audio, no? Sì, assolutamente. Il Banco del Nuovo Soccorso, sin dal mio primo contatto, sono stati veramente disponibili a sperimentare, che era la cosa più importante, perché noi non avevamo mai utilizzato un microfono davanti ad un'amplificazione di un certo tipo, quindi nelle piazze o nei teatri. E il Banco del Nuovo Soccorso ancora una volta ha dimostrato di essere aperto anche a tecniche che appunto provengono dagli anni 70, perché anche gli Aria hanno utilizzato delle teste binaurali all'epoca, e addirittura in uno scambio di messaggi con Fariselli. Fariselli stesso mi dice: noi ne avevamo una testa, forse parlava di teste della Sennheiser o qualcosa del genere, perché erano cose che... Questa è un po' una chicca da cultore, eh? Sì, erano cose stiamo andando sul peso. Sì, siamo passati a Fariselli, che è proprio maestro, e quindi veramente arrivano al cuore, toccano, perché in qualche modo comunque si parla un po' della storia della musica italiana, in cui ci sono dei nomi che veramente grandissimi. Quindi per me il Banco del Nuovo Soccorso era comunque una band da arrivarci per fare delle sperimentazioni, e hanno aperto la porta. E loro sono stati, come al solito, dei grandi. Sappiamo che loro non sono mai stati nuovi a questi modi di coprodurre, di sperimentare con tantissimi artisti nell'arco del loro percorso musicale, e li salutiamo. Questa però, insomma, è una chicca che, come suoni paralleli, direi che è dovuta a questa registrazione del live del Banco del Mutuo Soccorso delle Orme in 3D binaurale. Ma lasciate che io dormo questo sonno, c'è ancora tempo per il giorno, quando gli occhi si levano in alto, i miei occhi di pianto. Thank you. ancora ben trovati, benvenuti a Suoni Paralleli. Davvero, Franci, una puntata davvero molto molto impegnativa. Abbiamo appena ascoltato questo live del Banco del Mutuo Soccorso e delle Orme, questa registrazione in 3D binaurale. Oggi l'argomento cardine di questo Suoni Paralleli è l'audio in binaurale. Con noi Stefano Arcero, diciamo uno dei pionieri italiani anche un po' che si è occupato di binaurale insieme a Franco Russo, che salutiamo. Abbiamo parlato e fatto ascoltare Stefano oggi molto molto in binaurale e siamo andati anche nella parte tecnica, Francino. Però mi piace Stefano perché riesce a spiegare cose molto complicatissime complicate dal punto di vista ingegneristico eccetera in una maniera divulgativa. È il Piero Angelo del binaurale. No, benissimo, benissimo. Io invece, Stefano, una cosa che mi farebbe molta, molta curiosità è parlare con te in realtà di questo fenomeno che è l'home recording, no? Cioè, vale a dire la possibilità che chiunque ha di registrare a casa utilizzando dei mezzi digitali, di registrare la propria musica. Sappiamo che permette, quindi, in una condizione di massima intimità, di poter esprimere il proprio talento. Questa registrazione, ovviamente, noi parliamo della parte audio, ma sappiamo bene dai video di YouTube che può essere anche video, no? È però una nuova frontiera che da quando esiste, diciamo negli ultimi 20 anni soprattutto, è stata molto utilizzata. Permette a tutti di svegliarsi la mattina, di attaccare un microfono e di cominciare la propria espressività, come sì, la propria possibilità di espressione, così al mattino quando ti svegli. Io volevo capire questo. Magari Stefano, proprio appena sveglio, sarebbe magari bello, anch'io lo faccio, sì, è bello svegliarsi la mattina e registrare. Volevo capire, secondo te, l'home recording, no? Può essere fatto anche a livello binaurale? Cioè, tu ovviamente, certo, registrazione di altissimo livello qualitativo, può essere fatta anche in binaurale, cioè anche in fase home recording, giusto? Mi sembra di capire. Quindi allora vuol dire che non è così standardizzato verso il basso per questo livello. Uno può registrare a casa e registrare in binaurale, o sbaglio? Assolutamente sì, perché diciamo che l'idea di chi porta avanti il binaurale, quindi chi si attrezza di un sistema di ripresa audio binaurale, è di andare nelle chiese, andare nella grotta, quindi il musicista che in ti chiama. In ambienti di ogni genere. Esatto, in ambiente naturale, in ambiente cittadino, e quindi ti aspetti l'artista che ti chiama e ti porta su una location pazzesca, dove veramente carpire dei suoni ambientali che vanno bene con la musica che si fa. Poi, ad esempio, io anche a casa faccio home recording, perché ad esempio ti chiama Kubla della Bubu Vibration, che salutiamo, grande Kubla, e facciamo una voce dentro casa. Esatto. Sì, per fare dentro casa, per fare registrazioni. Quindi può essere, diciamo, variegata questa. Assolutamente. Cosa. Ed è un'arma anche a favore, sì. Quindi diciamo che l'home recording, oltre a permettere una più facile espressività o espressione da parte dei nuovi artisti, tutti gli artisti, di tutte le parti artistiche che sono dentro di noi, permette in realtà poi anche di sviluppare quest'arte ad un certo livello qualitativo, come ad esempio quello che il binaurale può garantire. Sappiamo che poi, ovviamente, la vera differenza sta nel fatto che chi ha la competenza tecnica, questo fatemi scoccare una lancia a favore, una freccia a favore dei tecnici che sono davvero talentuosi in diverse situazioni. Ci sono dei tecnici che, per il semplice fatto che lavorino su un disco, alzano e fanno esplodere il livello dei dischi in maniera evidente. Quindi è chiaro che chi non ha la preparazione di un super tecnico del suono in home recording non arriverà mai a produrre a grandi livelli, ma allo stesso tempo può fare delle grandi cose utilizzando dei mezzi che sono di ultima diciamo tecnologia, e che allo stesso tempo possono permettere una fruizione completamente diversa, che a volte, come il binaurale, può uscire dagli schemi, no, Franci? Certo, immaginati registrare semplicemente anche solo delle voci. Potrebbe essere un'idea anche per i poeti che devono registrare dei propri memori e magari vogliono imprimere nella registrazione già un certo tipo di espressività. Possono utilizzare il binaurale per fare home record recording, quindi questa direi che è una delle versioni parallele delle registrazioni in cui mi piace pensare che ci possiamo infilare. Io invece la testa del binneurale me la terrei sul comodino. Sai, troppo che bellina, carina, no? Mi piace esteticamente molto, è anche esteticamente molto interessante. Così dopo registra tutti i miei grugniti quando io introdurrei mi sveglio. Franci, un altro nostro ospite oggi, a proposito sì, di home recording, c'è cioè, capitato con noi un nostro carissimo amico nonché grande musicista jazz. Benvenuto Biagio La Banca con noi, diciamo, non ti occupi solo di jazz. Benvenuto a Suoni Paralleli, Biagio. È davvero Ciao. Un piacere averti qui con noi, anche per me è un stiamo trattando un argomento esatto. davvero interessante, molto molto particolare, perché è strutturato su livelli tecnici abbastanza esatto. difficili. Io, meno male che c'è Stefano che semplifica. Sì, dico una breve, allora ero il chiunque che hai citato prima, che passava di qua esattamente e si è trovato per caso ad ascoltare tutte le cose interessantissime che ha detto Stefano. Ho fatto gli ascolti binaurali, tridimensionali, a sei dimensioni, e dopo di questo credo che le mie registrazioni home recording, diciamo, non avranno più seguito. No, diciamo pure che in realtà, a prescindere dal fatto che il livello qualitativo di Stefano sia importante, sappiamo bene che in realtà le tue registrazioni sono di un certo tipo di livello. Ti vediamo spesso in giro nei locali a Bologna, non solo, con le tue chitarre, ad occuparti di generi di diversa natura. Insomma, fai diversi generi musicali, sei un musicista molto molto eclettico. Io, proprio perché abbiamo fatto ascoltare oggi durante la nostra puntata diverse cose, siamo passati sia dalle voci, oltre che da chitarristi come Gavino Loghe per quello che riguardava il binaurale, a registrazioni di concerti come prima per quello che riguardava il banco, io volevo far ascoltare non solo in realtà quello che viene prodotto da livelli molto alti e strutturati bene come quelli di Stefano, ma anche quello che normalmente un ottimo musicista come quale tu sei, questo a mio grazie, parere grazie, puoi anche dire musicista. Che non è vero, ma questo è il mio parere, a prescindere da questo, insomma, volevo capire quello che si riesce a fare semplicemente avendo una competenza tecnica. Io so che diverse volte hai portato avanti alcune produzioni di composizioni tue, insomma, e che quindi abbiamo modo di seguirle anche su SoundCloud, insomma, su tutta la parte web. Ricordiamo il tuo indirizzo Bix Selvaticus su SoundCloud per chi vorresse eventualmente collegarsi e andare ad ascoltare qualcosa. Noi oggi, per introdurti ancora, per darti il benvenuto a Suoni Paralleli, andiamo ad ascoltare Claustrophobia. Claustrophobia, questa è Biagio La Banca, una delle produzioni che il nostro ospite, stavamo parlando, insomma, ha avuto modo di portare avanti nel negli scorsi anni e che è stata registrata in home recording, vale a dire utilizzando dei propri mezzi a disposizione in un ambiente molto intimo come può essere l'ambiente domestico. Parlavamo proprio prima, Biagio, con Stefano Arcero, di quanto possa essere, tra virgolette, bello anzitutto nella condizione proprio di espressione intima registrare a casa, e poi anche in realtà possibile registrare bene ad alta qualità, come ad esempio nel caso del binaurale. Abbiamo ascoltato il tuo brano, e anche il tuo brano, ad esempio, questo sempre il mio parere, sembra che abbia un ottimo livello di registrazione, quindi vuol dire che l'home recording non è così un limite. Discreto livello di registrazione, non sono un tecnico, sì, ma ho orecchio per capire quando uno strumento suona bene. Hai registrato, immagino. Magari non ci arrivo immediatamente al suono che voglio, ci metterò un po' di più, però certo, alla fine. E poi comunque penso che per una registrazione che sia fedele a quello che tu voglia fare, non c'è bisogno di mettere troppo le mani andando ad equalizzare, a fare delle robe strane. Bisogna avere un microfono discreto. Io purtroppo non ho un famoso Neumann di cui parlavamo poc'anzi. Prima o poi spero di riuscire bisognerebbe averne una serie di Neumann, perché poi a seconda dello strumento che vuoi riprendere. Anche perché abbiamo visto che si sommano, quindi da 3D si passa a 6D. Si sommano, sì, no, ma a parte quello, cosa. Poi a seconda degli strumenti chiaramente c'è il suo microfono. Certo. E quindi... Vabbè, però insomma il senso del discorso, certo, è che anche non avendo dei microfoni di altissimo, sì, livello, come, certo, abbiamo ascoltato precedentemente, diciamo che si può fare una buona riuscita. La cosa che tu dicevi prima sull'home recording, che favorisce la creatività, l'espressività di ognuno, può essere, sì, anche un'arma, una domanda provocazione, esatto, la perché mia può realtà, essere un'arma a doppio taglio, perché in, esatto, realtà come tutti fanno, puoi registrare qualunque cosa in home recording, ma se non hai le idee, dopo cestinerai tutto alla fine, oppure farai dei video su YouTube che poi lasciano il tempo che trovano, insomma. Quindi la cosa principale è l'idea, certo, di quello che vuoi trasmettere. Diventa, se poi hai anche un po' di conoscenza dal punto di vista tecnico, sai dove posizionare un microfono, o anche perché poi tante volte nell'home recording si fanno delle registrazioni negli ambienti, lui diceva degli ambienti spettacolari, le grotte, le chiese, ecco, invece io tante volte mi sono ritrovato a registrare in cantine dove passano treni, dove passano aerei, dove passano gli autobus, quindi vibra tutto. E quindi ho imparato tutti gli orari, per esempio dell'11 bis, del 90. No, assolutamente, quindi... ma poi sappiamo che nella storia della musica ce ne sono tanti di esempi di questo genere di registrazioni. Certo, ma è quello che poi mi rende... viene in mente Syd Barrett chiuso nella sua camera per non so quanto tempo per registrare Handicap Lamp, no? Sì, è questo poi che rende viva la musica. Sì, sì. No, infatti è davvero un argomento che ci è piaciuto portare avanti anche durante la nostra puntata di Suoni Paralleli, che sta piano piano. C'è, ragazzi, il regista Gino Di Fazio che ci sta facendo dei segni italiani, tipo olimpicato, come dire. Stiamo arrivando alla fine anche di questa puntata, che dire, Franci, con il coordinamento tecnico di Gino Di Fazio, che ringraziamo ovviamente per la sua maestro pazienza. Per la sua pazienza. Ciao, infatti, Gino. E sperando di essere sempre meno prolissi e più concreti, di ascoltare sempre più musica, possiamo dire che, Franci, è stato comunque un super piacere. Che puntatona! Una puntata dal punto di vista tecnico interessante, davvero enorme dal punto di vista del contenuto. Grazie davvero a Stefano, a voi, grazie a voi per averci spiegato che cos'è il binaurale, grazie a Biagio La Banca per grazie aver a voi per avermi noi. Accolto è stato davvero un piacere, ragazzi, speriamo poi di avere modo di avervi ancora qui i nostri ospiti, e sappiamo che dal nostro punto di vista, dal punto di vista di Suoni Paralleli, diciamo, tutto è possibile, sì, quindi speriamo presto di avervi ancora qui con noi a parlare, perché no, anche di altri argomenti, perché il nostro motivo, il nostro concept, quello che riguarda Suoni Paralleli è molto importante, no, Franzi? Qual è il concept? L'hai detto finalmente, non l'avevi ancora detto in questa puntata. Infatti il concept è che dobbiamo chiudere, quindi davvero è stato un piacere. Questa è Suoni Paralleli, Radio Città Fujiko. Un caro saluto a Antonino Baresi, Francesca Clementoni, ancora grazie ai nostri ospiti, ci vediamo sabato prossimo sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM. Suoni Paralleli.